faccio sapere più in là, signorino Natalino. Non lo sapere adesso, non più in là, che sono curioso io di sapere. Dormi bene. Oh, un attimo, posso mettere un attimino una cosa? Noi stavamo parlando di radio, se avete dei problemi di apposta personali, se non altro paio di maniche. Non ho nessuna polemica con nessuno io. Via. Allora, io ti posso dire una cosa, bastava entrare e chiedere se poteva abbassare tutto lì, invece avete fatto un casino. Stavo parlando qua, si è disfatto tutto il passeo, non se ne comprende più nulla. Io mi ritiro. Ciao. No, non c'è bisogno di tutti gli anni, hanno già fatto progetti, sono passato a ascoltare e basta. Ah. Sono entrato, c'è una lì che sta facendo Saturno a Alessandro. Ma di dove è la mia, di domani, non lo so qui. Allora, non dico più niente a nessuno, non me ne sbatto niente. Dire che qua. Poi vedere. Da una parte apprezzo effettivamente Claudio, che almeno lui è uno dei pochi che rompe le palle quando sente di dover dire qualcosa, che adesso tutti quanti lecca. Sta facendo bene anche quando sta facendo male, minchia, ma ci avete un quattro anni di cacchio per sapere che i picchi di Bodomo di Milano allucinante. Una cosa cazzo, non sono una cosa cazzo, e l'hanno ribattuto di spesso, ma tutti di Maria. Mi sono trovato qui io, adesso mi faccio peggio di Claudio. Non è problema, sono come andare a mi posso, mi riesce, e basta. Quando mi posso fare? Quando non mi posso fare? Non mi posso. E non facendo le macchie, guarda, se no mi sono rotto le scatole veramente. Di quelli che faccio solitamente, che fanno a volte piacere, sono anche richieste sulle modulazioni, si cade dopo confermare, minchia, no, non pensavo che c'erano, sì, minchia, Claudio, spero che non fai quello che hai detto qualche mese fa, che ti dire la 27, cioè che sparisci la 27, rimani, va. Sono già sparito, ma non me ne frega niente. Una cosa è certa, ripeto, ribadisco che il mio concetto delle persone valide o non valide rimane sempre quello, capito? A me piace ascoltare, continuare ad ascoltare. E se devo dire qualcosa a qualcuno la dico, che si offenda o non si offenda, non me la butti più che nulla. E se mi devo spostare di canale per parlare con un amico o per farmi cacchi miei, io mi sposto, non devo chiedere permesso a nessuno. Punto per basta. Ciao a tutti. Ok, dai, comunque questa radio è satura, ragazzi, grazie del controllino che mi avete fatto, ecco. Io ti ho detto che ti ascolto bene e non posso dire diversamente, tu chi ti ascolta male ha espresso un parere, non c'è bisogno di prendersi, di fare polemiche, di fare... Qua siamo tutti assieme per esprimere opinioni e pareri verso uno e verso l'altro, per bene e per male, perché quando a me mi hanno detto che devo fare così, ho fatto così, quando mi hanno detto devo fare colà, ho fatto colà, quando io devo dire ad una persona abbassa oppure guarda che c'è qualche cosettina da regolare, l'ho sempre detto, nella mia possibilità e nella mia educazione. Se poi qualcuno pensa che io ogni volta che entro in radio devo fare l'arrogante, ma che pensi quello che vuole, a me cosa cazzo mi affutti? Ho capito già, ma mi sa che questa volta che non sono passato, ma che mi sorpassa, non mi interessa niente, non devo giocare con nessuno, io ho capito, ho 10 radio accese, posso benissimo abbassare il volume qua e spegnerlo del tutto e andare a ascoltare altra gente, cosa me la fu. Però ricordiamoci che se c'è la libertà di parola e che quindi quando uno esprime un'opinione non c'è bisogno di prendersi, bisogna accettarla oppure bisogna ributtare sopra e dire no, secondo me è così o secondo me è colà. Siccome di questi discorsi non se ne fanno più, si va a vedere giù di batta asciutta, allora va a vedere di batta asciutta. Tutto bene, va tutto bene. Io ho capito già, però non mi riferivo di radio, sto passando di radio, sto passando di arroganza, diverso. Tu ti sei presentato un signore ultimamente, attraente mi sa di no. Io sono stato sempre un signore che confronta la gente, forse qualcuno non ha mai capito il mio comportamento in radio, capito? Perché la radio l'ho usata 30 anni, mi sono sempre comportato in maniera equa, ho sempre rotto le palle a nessuno al momento che bisogna romperle, quando non bisogna rompere bisogna stare in silenzio. Siccome io sono in silenzio, ho le cuffie e sto ascoltando, ieri ho chiesto una cosa che non è stata fatta, qualcuno non si è offeso, ribadisco e ripeto che niente le devo, niente mi deve. Quando ho necessità di chiedere, di abbassare o di fare una modifica oppure di dare un consiglio a qualcuno, continuo a darlo. Quando non ho voglia di darlo, sto zitto e ascolto, punto e basta. Perciò non c'è più modo di poter discutere in questo 27, e questo è il mio punto di vista, perciò io la penso così e continuo a tenermi il mio parere. Per chi è al parere contrario può continuare a fare quello che sta facendo. Non sarò di certo io a impedirle quello che deve fare. Non te va. Ciao a tutti, mi sono già stufato abbastanza, bene. Un carattere un po' particolare, quindi meglio che sia zitto e faccia fare a chi vuole fare quello che vuole fare. Buonanotte a tutti. C'è Antonio Bombolo in bianco, ne prendi tu Antonio. Sì, un po' che fare. Claudio, sta facendo una schifezza, va bene. Sì, grazie, vedrò di modificare qualcosa. Sei benissimo, che non è vero. Guarda un po'. Quindi c'è la gente che stava parlando, io ho rinunciato ad Antonio, se vuole riprendere e continuare la questione, io mando i silenzi e pure tutti. Buonanotte a tutti, Adriano, ci sentiamo la prossima volta. Avanti Antonio Bombolo. Che si dice? Sono andati tutti perché vuol dire che no. Posso anche lasciare questa antenna, guarda. non c'è nessun problema. E come ti ho detto poco fa, stai arrivando benissimo, io non ho nessun problema, ti ascolto bene, forse perché ho il dipolo che un po' attenua la tua emissione radio, magari chi ha la manto ti ascoltava male, però se qualcuno ti ha detto che ci avevi quel problema, discutetelo. Come mai, dove mi hai sentito, vediamo, ritroviamo, come abbiamo sempre fatto, capito? Niente cazzate, perché se non si incazza non mi può capire. Io problemi di chissà cosa non me ne ho fatti nulla, io sono anche a capace di bilia e cubissi la da robo giuro mi antenna, forse non hai capito bene che là. No, che il problema non è più di frequenza, è non che di bacino c'è un problema. Siccome il signorino non lo può più e mi ha tolto io la chitarra bassona, non fa entrare un cazzo, si deve solo rassegnare, capito già? Ecco, vorrei lasciare il discorso, ma ci sono questioni personali, e allora va bene, allora meglio ancora, allora discutetene lì, io comunque ripeto, ribadisco, non mi permetterò mai più di entrare a dire niente a nessuno, però quando devo farmi due chiacchiere non ho ordine da chiedere a nessuno, se qui qualcuno ha qualche problema ci agisca di conseguenza, io mi sposto dove mi pare, mi piace, ma non me ne frega niente. Non permetterò mai più di ascoltare a nessuno, di ascoltare i cacchi degli altri. È mesi, forse un anno che io non entro in radio, dall'anno scorso forse. Adesso è perché sto rimettendo tutto in linea le radio, quindi ogni tanto ne accendo una, ascolto, provo, faccio, se no me manco, ma ti chiamano e basta di continuare a dire i cose che ci avevo disegno da 30 anni, capite? Le cose che si stanno ripetendo sono sempre quelle di 30 anni fa, né più né meno. Quindi, tutto bene, Alessandro. E cappagliata, già lo so. Poveraccio, mi va di solo bene, mai compreso. Giubbaedo, chi non sa, chi non fa di neanche sciacca. Questi sono problemi che a me poco interessano. Sai benissimo, io. A me grazie a Dio non manca niente, come spero a te, come spero a tutti quanti. Però se si parla di radio, si parla di radio, si parla di Roma, si parla di Roma. Se poi ci sono altre cose, vedetele tranquillamente, perché già ho i miei cose da fare, le mie cose da seguire, ma niente, tu sei perdo ancora tempo a stare dietro le chiacchiere degli altri. Mi hanno detto troppo, mi hanno fatto troppo, quindi basta così per me, basta un momento di dire alle invece buon veglio a tutti. Che si divertano, che faccia. È capitato l'altra sera che forse sfortunatamente, non lo so, ma avremmo le cuffie, c'era un bellissimo questo, tra l'altro stavo ascoltando dove c'era Antonio, con dei discorsi particolari, c'era Gianni, c'era poi il comitato Dantini, il Fieco, il Figosi, il Balavam, Budomà, mi è venuto spontaneo a schiacciare la porta e dire ma nei bugheri che seguono è ora di stare a questi ecco, e qualcuno si è offeso, a me quando uno si offende, se mi deve soldi vado a cercarlo, ma siccome non gliene devo non me ne deve, quando si è offeso, può rimanere offeso, non me ne ha tutti brutti, manco ballanticamme. Immagino, però non ho compreso questa uscita strana che ha avuto oggi, ecco, sono quella, e infatti sto cercando di collegare, capito, e va tranquillo che dico sì, e non mi sbaglio, importante che non mi succeda nulla, che se poco mi succede qualche cosa, hai compreso che può essere sciato, e quindi di conseguenza agisco, quello non ci piove. E si dà adito solo alle persone che stanno ascoltando a sapere ognuno i propri problemi. I problemi ne abbiamo tutti, si cerca di reagire, si cerca di andare avanti. Quindi basta non offendere nessuno e ci c'è. Però la libertà di parola c'è, cioè, se uno deve esprimere, la radio è fatta per comunicare, per esprimere le proprie opinioni verso gli altri devono esprimere verso gli altri, quindi è una cosa reciproca, se poi qualcuno ha qualcosa da dire, da fare, o non vuole parlare con problemi che uno mi possa disturbare o fare, non mi interessa. Se poi uno ha necessità, come è successo a Antonio, mi dispiace, stava a venire lì a 42 e dirmi guarda che sto prendendo colpi, non è che puoi abbassare, io avrei messo completamente a zero, avevo 10 watt, una corte radio, sono fatte così 10 importanti, poi erano sempre 40-50 watt, perciò ne mettevo 3 di watt, ne facevo arrivare 5, quindi non succedeva niente. Quello va per il discorso di Antonio, mi ha fatto piacere che me l'ha detto, la prossima volta me regolerò di conseguenza. Ma degli altri che si offendono quando uno esprime un parere o esprime un'opinione nei confronti di chiunque, non di uno, di chiunque o più persone, non se la devi pigliare. I problemi si devono discutere, le opinioni sono fatte per essere discusse, non fa pigliarsi a uno o l'altro e fa pulirsi il contro uno o l'altro, non serve niente a nessuno. Non so, già, non so. Infatti, se vi sono problemi, non c'è problema. Scende in negozio, chiamiamo una persona che ha questo problema e glielo dice in faccia. Così è finito qua. Capa, hai ragione perfettamente Claudio. Hai ragione perfettamente Claudio. La radio non è fatta per attuffarsi, ma anche tu però Alessandro, sinceramente. Perché non si mette la questione di fuori dalla radio? Perché la radio è fatta per svagarsi, per passare 15-20 minuti in compagnia e svagarsi e altre cose, non per queste cose rivasse e personali, anche tu Alessa, i tuoi problemi risolvi di persona, non scaricare sulla radio, anche Claudio ovviamente, a questo punto gli ho perfettamente ragione. Io non posso continuare a dire sempre le stesse cose che abbiamo letto per 30 anni, no? Cioè, ci sono i problemi, si discutono, basta, ma non è che uno sarebbe a prendere per questo e questo. Vedi, Antonio, è stato sincero, ma è detto, fra, io non te l'ho detto ieri, te l'ho detto oggi, ieri l'altra volta eri lì, però io non sapevo niente, non posso immaginare che ci possano essere questi problemi, però sono cose normali che possono succedere queste, no? Quando non si sposta gli cazzi, è Claudio, magari c'è Peppino, Antonio, Filippo, un altro canale sto prendendo colpi, si viene, si dice, non è per abbassare un pochino oppure spostarti più su, perfetto. Non ci sono parole da dire, perché quella è educazione, si abbassava e si continuava a trasmettere, ma quello che invece hanno detto a me è un'altra cosa, capito? Affigliate, se ne è andato, no, a me un po' come una futti, tutti zero, mi una futti, mi zero sotto zero, cioè, non sto pensando alla radio, entro così giusto per fare due chiacchiere, come è possibile, ma non è possibile continuare a rimanere dove sono, ne ho da fare. No, pure, io vi saluto per tardi e domani mi devo fare questo e ho finito questo corso, sono le 11:30. Mi stanno aspettando per tirmi il computer, dopodiché spengo anche gli altri ragazzi. Vi saluto tutti. Ciao Alessandro. Un bocca al lupo per tutto, tranquillo, sereno, come sei sempre stato. Massima educazione nei confronti di tutti, sia l'altezza per poterlo fare. Ciao a te Adriano, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando, buonanotte a tutti. Ciao Claudio, buonanotte, ci sentiamo. Ciao Claudio, non ti preoccupare, io omego, non ci piove, vai tranquillo, il problema sono sempre i rasci. Allora, risolvi in maniera molto tranquilla, educata, ti ripeto, ti conosco e sei una persona che riesce a ragionare con la testa, non con i piedi, quindi ti posso solo augurare questo, ma non fate vedere mai alla gente ciò che possiamo fare, perché siamo in grado tutti di usare le mani, di usare i piedi e soprattutto di usare i coltelli, le pistole, i fucili, perciò facciamola bravi. Basta quello che sta succedendo in tutto il mondo, ci vogliamo anche noi sardi e soprattutto conoscenti e amici. collaborare. Ciao a tutti, buonanotte, alle prossime, se ci sarà una prossima volta. Claudio, spero che sia più piatto possibile la prossima volta, magari in condizioni diverse. Sentiamo nel plus. D'accordo, vedremo se ci sono i requisiti, si può sempre fare un due chiacchiere. Quando ci sono i requisiti, quando non ci sono, preferisco rimanere in silenzio. Buona a tutti.